face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. As I said, this is, it has been determined that this is a hoax. That it was a publicity stunt. È ormai chiaro che è tutto un imbroglio. This is an hoax, dice lo sceriffo del Colorado attorno a questa inesistente storia del bambino scomparso sul pallone. In realtà non c'è neanche mai salito, stava nascosto nella soffitta di casa sua in un angolo sperduto, un po' nel mezzo del nulla del Colorado, nascosto dal padre, forse dai genitori, addirittura tra loro compiacenti, nel tentativo di inventare una clamorosa sparizione infantile che poi però servisse come meccanismo di lancio di un reality show, di un programma televisivo. Insomma, tutto ciò per dire, in apertura della puntata di oggi, che davvero misteriose e inesplicabili, talvolta solo le strade della comunicazione, no? E soprattutto sono le strade dell'attenzione, dell'interesse del pubblico. L'America da tre giorni con grattacapi molto seri ai quali far fronte si sta appassionando soprattutto alla storia di questa strana famiglia Heaney e di questo padre meteorologo e inventore a tempo perso che ne inventa una più sporca delle altre, appunto per cercare, no, di dare una svolta alla propria vita privata, familiare, insomma per aprirsi una piccola finestra nel mondo della comunicazione, nel mondo della televisione. Tutto torna sempre lì e utilizza un bambino di 6 anni, suo figlio, dal fatidico nome di Falcon, come scusa, come motore di questa caccia al bambino che poi non è neanche mai partita. Però l'America continua a ragionarci sopra. Prima di tutto si stanno studiando possibili metodi di persecuzione, di punizione dell'adulto che ha messo in ballo tutta questa storia, tutto questo sommovimento, anche tutto questo disturbo naturalmente delle autorità, di quelli che hanno fatto le ricerche, ma anche poi che ha comunque magnetizzato, no, l'attenzione della nazione. In qualche modo si chiede che venga punito, ma siamo sicuri che si possa, che esista una legge reale per farlo? Addirittura Time, il più autorevole settimanale d'America, dice: ma quale sarebbe la punizione giusta per dei genitori che usano la sicurezza dei loro bambini come esca, no? Che si basano su di loro per poi chiamare la televisione, per convocare la polizia. Come immaginavano che sarebbe finita tutta questa storia? Insomma, grandi editorialisti intorno a ragionare, chiamati a ragionare intorno al solito buon vecchio tema, ovvero fino a dove sono pronti a spingersi, cosa sono capaci di fare gli abitanti di questa grande repubblica occidentale pur di conquistare quello che ormai è il celebre, da almeno un trentennio, quarto d'ora di celebrità. Primo piano. E adesso cominciamo a parlare invece di argomenti seri, grossi e corposi della America che apre questa sua nuova settimana dal punto di vista dell'amministrazione, delle istituzioni e di nuovo della comunicazione. Perché per parlare di istituzioni bisogna parlare di nuovo di televisione. Un tip actually come from two of my favorite political philosophers. Mao Zedong and Mother Teresa. Questo è ormai il famigerato pezzettino di televisione che va ad appannaggio di Anita Dunn, che è la responsabile della comunicazione della Casa Bianca di Barack Obama, che è stata messa letteralmente alla gogna dalla destra, dalla conservazione televisiva americana, perché avrebbe detto che uno dei suoi filosofi di riferimento è Mao Zedong. Da qua con una serie di associazioni un po' spericolate in pratica. Glenn Beck e soci, gli uomini che guidano Fox News e comunque l'informazione di destra, hanno cominciato a dire che Anita Dunn in realtà è una comunista, che alla Casa Bianca c'è il complotto, e si è scivolati giù per quella strada. Di sicuro la guerra in atto tra Fox TV e la Casa Bianca, una guerra mediatica per fortuna, è un dato di fatto. È vero che David Axelrod, il principale confidente e stratega della campagna elettorale di Obama, sia andato in televisione a sua volta a dire che la rete di Rupert Murdoch non è veramente una rete di notizie, testuali parole. Poi è rintervenuta Anita Dunn, naturalmente, per contrattaccare nei confronti di Glenn Beck e degli altri editorialisti, dicendo: sì, io ho detto che Mao Zedong è uno dei miei pensatori di riferimento, ma ho anche detto che Madre Teresa è l'altro mio pensatore di riferimento. Come la mettiamo, insomma? Perché mi hanno manipolato in questo modo? C'è una radicalizzazione dello scontro, questo è un dato reale. Si intravedono delle prime scadenze elettorali tra poco più di una quindicina di giorni. Si eleggono dei governatori, si elegge il sindaco di New York, ma soprattutto si avvicina il momento in cui gli americani cominceranno a battersi seriamente per il rinnovo di Camera e Senato, e a questo punto vedrete che il livello dello scontro salirà in modo piuttosto precipitoso. Per l'intanto Barack Obama e Bush padre, il George H. Bush, hanno fatto bisboccia insieme, una serata di beneficenza in Texas, durante il quale tra l'altro George H. Bush è stato particolarmente complimentoso nei confronti di Obama. Ha ricordato che quando lo ha conosciuto per la prima volta durante il disastro di Katrina, rimase subito colpito dalla personalità di Obama, e ha dichiarato: mentre molti politici erano lì per andare in televisione, io capii subito che Obama era differente. Arrivò senza tante fanfare e io ho percepito immediatamente che si trattava di una persona che si occupava in modo sincero degli altri. Beh, questo è veramente il più inatteso degli sponsor. Ma la radicalizzazione dello scontro passa attraverso anche altre strade, una delle quali è la condotta, alcune scelte dichiarate dalla Casa Bianca su questioni sulle quali in tempo di campagna elettorale si era stati molto espliciti. Una per tutte, il Darfur. As president, I will make it absolutely clear that the United States and the world must no longer tolerate mass atrocities and crimes against humanity, especially. Questa è Hillary Clinton in campagna elettorale, che dice: quando sarò presidente, purtroppo non è diventata presidente, però è diventata segretario di Stato e quindi è interprete della volontà del presidente, del suo capo ufficio Barack Obama, non tollereremo il proseguimento di atrocità come i massacri di massa che stanno avendo luogo in Darfur. Interverremo con grande decisione. Oggi invece la notizia che riguarda il Darfur, come forse saprete, è un'altra. In sostanza si decide di optare per un approccio più conciliante verso Khartoum, di dialogare con il governo sudanese. Si sceglie la opzione di una moderazione, sia pure nei confronti di quello che viene chiamato comunque un governo repressivo. La stessa Hillary Clinton, ed è il New York Times a spendere molte colonne per parlarne, spiega che c'è un cambiamento di linea politica che verrà anche sancito da comunicazioni ufficiali di Hillary oggi, e c'è una revisione della politica nei confronti del Sudan che prevederebbe proprio un'apertura verso il governo di Omar el-Bashir, soggetto a sua volta di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sta cambiando l'atmosfera, e anche qualcun altro, ma non più da destra, ma teoricamente dall'altra parte, se esistessero ancora una destra e una sinistra, se ne è accorto. This can pacify you and lull you to sleep in a dangerous time. È il ministro Louis Farrakhan, il capo della Nazione dell'Islam, il leader degli attivisti afroamericani, che a sua volta ha preso posizione nei confronti di Barack Obama in un discorso a Memphis con il quale veniva commemorato il 14° anniversario della marcia del milione di uomini. Ha detto una cosa che, come dicevamo, attacca Barack Obama dall'altra parte: non fatevi pacificare, non vi addormentate, non pensate di vivere in un'America post-razziale. Tutto ciò non è vero. Il presidente Obama non cura gli affari affari della nazione nera, cura gli affari della nazione, e in quanto tale noi dobbiamo continuare ad accettare la responsabilità di costruire le nostre comunità. Diciamo che la settimana per il presidente Obama e la sua amministrazione parte tranquillamente, forse è da dire business as usual, no? In mezzo a due fuochi. Santa Claus, here comes Santa Claus, ran down Santa Claus Lane, fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, hearts merry and bright. Hang your stocking, see your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Buongiorno America. The question does not come how many troops you send, but do you have a credible Afghan partner for this process that can provide the security. E ci siamo tenuti la parte, come dire, più scottante del problema in questa nuova settimana dell'America, soprattutto allorché si affaccia verso il mondo, per la seconda parte invece del nostro programma, e lo faremo anche in compagnia di un ospite, una piccola disamina del problema in questione. Quello che avete appena ascoltato è il capo dello staff della Casa Bianca, si chiama Rahm Emanuel. Questa è un'intervista a CNN nella quale in sostanza spiega qual è la linea che poco alla volta sta prevalendo nei confronti della sfaccettata crisi medio orientale per Barack Obama, ma nello specifico per quello che riguarda la mobilitazione nei confronti dell'Afghanistan e le risposte alle pretese da parte del Pentagono e nella fattispecie del generale McChrystal di un incremento di truppe per mettere sotto controllo la situazione in quello scenario complicato. Emanuel, Barack Obama per voce di Emanuel, risponde che la questione centrale deve essere affrontata solo allorché si potrà essere sicuri che in Afghanistan e a Kabul ci sia un governo credibile, ci sia sarebbe irresponsabile, ha detto ancora Emanuel, rafforzare il contingente americano in Afghanistan senza un governo credibile alla guida del paese. La questione per noi è di sapere se ci sono un governo credibile e un processo elettorale legittimo. Quindi, detto quello che abbiamo detto in conclusione della prima parte su Hillary Clinton e il Darfur, analizzata un po' questo atteggiamento decisamente attendista, assai più analitico che in passato nei confronti dell'Afghanistan, registrato quel dato invece straniante, no, delle accuse di Ahmadinejad nei confronti di una possibile partecipazione americana all'attacco in Baluchistan, all'attacco kamikaze in Baluchistan ai danni dei Pasdaran, io chiamo in causa con piacere Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, spesso ospite ai nostri microfoni. Lo ringrazio di essere con noi. Buongiorno Ugo. Buongiorno, grazie a voi. Vorrei per cominciare da te un parere, insomma, su questi due piatti della bilancia, no? La via diplomatica e la via un po' ormai vecchio stile dell'interventismo americano. Come la inquadri, come la valuti questa crescente intensità dell'America nei confronti di un indirizzo fatto più di parole che di truppe, e poi come ci inserisce a questo punto invece i sussulti che arrivano, informativi che arrivano dal Medio Oriente, no? Forse davvero è l'intelligence americana a prendere il controllo delle operazioni in questo momento. Cosa dici, Ugo? Beh, intanto come dottrina nella diplomazia, cioè nella diplomazia nella guerra, l'una e l'altra funzionano insieme, a meno che, certo, non sei un guerrafondaio come l'amministrazione Bush, quella precedente, quella del figlio Bush. Se pace e guerra funzionano insieme, e quindi soprattutto in Afghanistan, ma non solamente lì, in Afghanistan il conflitto va di pari passo con il tentativo di stabilizzazione politica. Quello che dice Rahm Emanuel, lo stesso Rahm Emanuel, che è una delle persone più intelligenti che ci sia, certo, nella, certo, americana, certo, è, è una cosa banale ed è anche una cosa sbagliata, nel senso che Rahm Emanuel sa perfettamente che non è possibile avere per i prossimi 25 anni un governo afghano che veramente sia rappresentativo del voto degli afghani, voto che gli afghani non sanno che cosa sia. Cioè, tu dici che è un po' una scusa di occasione, insomma, intanto prendiamo questa per prendere tempo? No, è qualcosa che comunque un Rahm Emanuel nella sua posizione deve dire. È ovvio che c'è anche un'opinione pubblica americana alla quale dover spiegare per quale motivo si mandano i soldati a rischiare di morire. Però è ovvio che l'elezione, il processo elettorale non è parte della cultura politica afghana. C'è la girga, ci sono le assemblee delle tribali, ma non il voto, l'elezione come intendiamo noi in Europa. È stata una forzatura. Si sa perfettamente che se si cerca di imporre un'elezione come quella che si è imposta all'Afghanistan per mostrare che l'Afghanistan è democratico, è ovvio che sono delle bufale, che sono delle... Ci sono dei brogli, ma non solamente perché lo fa Karzai, che forse è e continuerà a restare per un bel po' l'unico nostro possibile interlocutore, ma anche se l'avesse vinto Abdallah avrebbe vinto allo stesso modo barando. È ovvio che Karzai ha barato, come è ovvio che barerebbe chiunque altro, perché il voto se lo vendono, perché non sanno che cosa sia, non fa parte della loro cultura. Detto questo, bisogna continuare a cercare un governo legittimo. Se Karzai è in grado di farlo, indipendentemente dal fatto che abbia rubato il voto, è meglio che non si vada a votare, perché una volta che si vota aumenta anche il numero dei morti, sia afghani che dei nostri soldati. Quindi tanto vale, meglio evitare di votare. La politica deve continuare a fare il suo lavoro, il lavoro in base alla realtà reale, al quadro reale dell'Afghanistan, che appunto è contatti con i capi delle tribù, Gardoli, perché poi tutto questo scandalo attorno al fatto che i nostri soldati pagavano è ridicolo, è una delle cose più ridicole e assurde di cui si parla, perché tutti quanti hanno sempre pagato, gli afghani hanno pagato gli afghani. Forse anche svincolare proprio il denaro dalle situazioni di crisi e di guerra è un assurdo, no? Le due cose sono ben connesse. Un articolo del New York Times di oggi connette il denaro e le fonti di approvvigionamento dei talebani, la prosecuzione della guerra. Risulta dall'articolo che ai talebani costa poco fare la guerra, per esempio. Ma certo, ma il problema dell'Afghanistan è che finché siamo noi a parlare di Afghanistan non ne sappiamo nulla, vabbè, diciamo solo fesserie e non facciamo male a nessuno, forse magari disinformiamo. Ma quando anche quelli che fanno le guerre e le pace in Afghanistan di Afghanistan non sanno nulla, allora il problema diventa veramente difficile da risolvere. Perché si dà per come quando ci fu la famosa quando liberammo l'Afghanistan, dicono gli occidentali, e sui nostri giornali, in opinione pubblica, si impose il grande dibattito sul burka. Ma come, abbiamo liberato l'Afghanistan e le donne vanno ancora in burka? Ma non è una questione di cui discutere, perché le donne in Afghanistan andavano in burka anche prima, durante il socialismo c'erano più donne liberate, ma abbiamo deciso che quei regimi socialisti filosofici non andavano bene. E finiti quei regimi socialisti, le donne sono tornate all'Islam, che è parte della loro cultura. Quindi noi adesso stiamo ancora a discutere sul fatto se siano democratiche o no quelle elezioni in Afghanistan. Non potevano essere diverse. Certo. E quindi su questa cosa dobbiamo decidere se aumentare o non aumentare, soprattutto gli americani, ma anche noi, gli italiani, prima o poi c'è il rischio che si debba decidere se aumentare o meno le truppe, e soprattutto decidere se, come, quando, ma comunque con la necessità di cercare dei talebani abbordabili, perché anche su questo c'è tanta disinformazione. I talebani non sono una cosa, cioè non è Hezbollah. I talebani sono una definizione generica oramai, certo. È un partito, ogni regione, ogni provincia ha i suoi talebani, e quindi come si è sempre fatto sulla base tribale, le assemblee tribali per governare l'Afghanistan, e i rapporti tribali, a volte anche presentandosi con una bella valigetta di banconote, con i piccoli capi tribali che ti permettono di attraversare quel fiume e di avere quella provincia tranquilla. Grazie a Ugo Tramballi. E comunque, di fatto, anche attraverso le dichiarazioni di Rahm Emanuel, la Casa Bianca persegue questa presa di tempo, no? Questo atteggiamento assai più guardingo che nella precedente amministrazione. Ne seguiremo gli svolgimenti qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, redazione Gloria Guerrera, regia di Valerio Occhetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano, email buongiornoamerica@radio24.it, pagina Facebook, redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'una e mezza qui su Radio 24. Ci sentiamo, state tutti bene. Scoop, scoop, scoop, scoop, scoop.